Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi parleremo di Lambrusco a tutta birra. Ebbene, un doppio significato, una doppia chiave ha questo titolo, soprattutto perché in prima battuta il Lambrusco, diciamo, che sta vivendo un grande rinascimento in questi ultimi anni, e in secondo luogo anche perché ci saranno, come andremo a scoprire poi, delle commistioni tra birra artigianale e Lambrusco. Lo vedremo poi nel seguito di questa trasmissione. Bene, chi volesse intervenire, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Ebbene, perché il Lambrusco? Perché, dicevo, ha una seconda vita. Dopo anni che è stato messo anche in un angolino, è stato molto criticato, è stato molto discusso, da qualche tempo diciamo che si sta riprendendo delle rivincite, perché sul mercato sono arrivate delle etichette, delle bottiglie che sicuramente hanno avuto un grande successo e mostrano anche le qualità di questo prodotto. E allora io vorrei cominciare così a capire il mercato. È un mercato in crisi questo del vino, sicuramente non ci sono dubbi. E purtroppo soprattutto in Italia, come dicono i produttori di vino italiano, ma pare che nella grande distribuzione però il Lambrusco non senta la crisi come altri vini. Allora io lo chiedo a Sergio Soavi, che è responsabile dei prodotti tipici COP. Buongiorno Sergio. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Allora, ma tira questo Lambrusco nella grande distribuzione? Diciamo che come il vino in generale, come alcuni vini in particolare, è un grande antidoto a questa malinconia, caro Davide, perché si rischia di tornare a bere ancora una volta per dimenticare, mentre eravamo in anni in cui bevevamo per ricordare. Diciamo questo, al di là delle battute. Bel gioco di parole, complimenti. Diciamo questo, al di là delle battute semplici. Quest'anno per la prima volta la grande distribuzione ha un segnale negativo nelle vendite a volumi dei vini. Non ha fatturato, e questo è un piccolo segnale positivo, perché significa che sempre più persone sono comunque in grado di capire che in una certa fascia prezzo possono bere in maniera intelligente e interessante. A livello di queste fasce di prezzo, quindi quelle diciamo più gradite, il Lambrusco, per le sue caratteristiche, sono già 3-4 anni che sta dando dei segnali interessanti di tenuta e anzi di crescita, probabilmente perché è un prodotto comprensibile e risponde a uno stile di vita sempre più diffuso che vede il vino più come elemento socializzante che come alimento. Bene, mi piace questa sottolineatura, perché anch'io sono convinto che il Lambrusco, come la pizza, sia anche uno stile di vita, sia un qualcosa che va al di là, diciamo, nel caso della pizza, di un prodotto che si mangia, qui di un prodotto che si beve. Non so se sei d'accordo. Ma sono abbastanza d'accordo, anche perché io sono qui che sto aspettando in casa una comitiva di prosecchisti anonimi che cercherò di convertire al Lambrusco. Ah, bene, bene. Ma al di là di questo, io vedo veramente che sono anni in cui c'è voglia delle persone di socializzare in maniera serena attraverso le cose, perché sono tanti i motivi per non stare sereni e leggeri. Il Lambrusco in questi anni, grazie al lavoro straordinario che tutti i produttori hanno fatto, sia cantine sociali che erano molto diciamo così bistrattate tanti anni fa, tutte le cantine sociali hanno fatto un lavoro fantastico nei confronti dei loro associati agricoltori per migliorare la qualità delle uve. Bene. Questo lavoro è arrivato in fondo finalmente. Grazie Sergio, grazie di questi, diciamo, input che tu ci hai dato. Abbiamo con noi un personaggio, un produttore che ha contribuito a questo rinascimento del Lambrusco, che è in bicicletta. Io spero che ci senta. Buongiorno a Cristian Bellei. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao Davide. Cantine della Volta, bene. Cristian, io a te voglio porre questa domanda: ma dove ti è venuto in testa di produrre il Lambrusco col metodo classico e farlo diventare così, diciamo, un prodotto di qualità superiore? Ma diciamo che secondo me, per fare una piccola introduzione, il Lambrusco adesso viene affiancato dalla parola, come hai detto tu, qualità. E ogni cantina, grande e piccola, vinifica ed elabora con un proprio metodo legato alla tradizione o all'innovazione. Noi con la Cantina della Volta abbiamo un piede sulla tradizione, con i vini rifermentati, e un piede sull'innovazione, che è il metodo classico. E secondo me il metodo classico ha la fortuna di esaltare certe caratteristiche del Lambrusco. Di finezza, di eleganza, di sobrietà, ma soprattutto quello che è molto interessante è di donare una longevità e di avere anche un largo spettro di abbinamento, perché logicamente lavorando sulla finezza del prodotto, sull'acidità l'abbinamento diventa sempre più con prodotti di spiccata. Ecco, diciamo che gli è stata data una certa nobiltà, esatto. che sicuramente senza nulla togliere al rifermentato, che è una cosa che sta tornando in voga e sta criptando tante persone, è un interesse nuovo che io ho visto perdere negli anni 80 e adesso trovo una nuova vita il Lambrusco con queste rifermentazioni ancestrali o rifermentazioni anche in bottiglia, che dir si voglia, perché qui invece si rispecchia tutta la materialità, cioè tutto quello che è un completo, diciamo, connubio con i nostri, con le nostre parti alimentari di zona, ecco, che sono. Quindi abbiamo un Lambrusco tra innovazione e tradizione, questo è forse il grande vantaggio, sì. Quindi torniamo indietro, però andiamo anche avanti con rifermentazione indietro e andiamo col metodo classico in avanti. Ti rilascio alla tua bicicletta, grazie a Cristian Bellei, Cantina della Volta. Grazie. Sentiamo Claudio dalla provincia di Mantova. Buongiorno Claudio. Buongiorno Davide. Buongiorno. Prego. Niente, io volevo portare anch'io una testimonianza sui miglioramenti che ha fatto il Lambrusco in questi anni, e in particolar modo io parlo di quello mantovano, naturalmente, dove le cantine cooperative ma anche i privati in questi anni hanno ottenuto importanti riconoscimenti internazionali come Alvin Italy. E poi dopo vorrei sottoscrivere quanto ha detto prima il responsabile commerciale della grande distribuzione, che il fatto che il Lambrusco sia un vino con una gradazione alcolica molto bassa, un vino a un prezzo in questo periodo di mercato difficile, di congiuntura economica difficile, i consumi non solo si sono mantenuti, ma addirittura noi abbiamo notato qualche leggero aumento. Ecco. Bene, Claudio Pasqualini, mi sembra, tu sei presidente, sì. Se ho ben capito, di una cantina sociale, di quale? Di Mantova? Esatto, Gonzaga. Bene, grazie. Il gastronauta. E di nuovo a parlare appunto di Lambrusco. Come abbiamo sentito, bene, insomma, un vino che sta ritornando sicuramente per due variabili, abbiamo sentito: una per la gradazione alcolica, due per sicuramente anche il prezzo che è contenuto, diciamo che in questo periodo sicuramente ciò conta molto. Devo dire che ho moltissimi già sms che mi segnalano tantissimi lambruschi, chi il reggiano, chi il mantovano, chi il modenese. Bene, insomma, è interessante vedere anche questi campanilismi sul Lambrusco. Ci sono alcuni sms che non gradisco molto, chiamarla la Coca-Cola alcolica, caro amico, non sono assolutamente d'accordo. Sì, in America era stato chiamato Red Cola, ma in tempi forse molto bui per il Lambrusco. Oggi è cambiato quasi tutto. Ma ora voglio sentire, abbiamo Stefano dalla provincia di Parma, un radioascoltatore, sentiamo. Prego Stefano. Sì, buongiorno. Davide, noi nella nostra zona, l'Emilia, Parma, Reggio, Modena, Mantova, è sempre stato un vino di innovazione, di tradizione, che con i nostri cibi grassi ha sempre portato, diciamo, il cosiddetto digestivo dopo pasto. Poi è sempre stato un vino di una volta, perché viene bevuto nelle famose ciotole, che tu sicuramente conosci, ma anche innovativo, perché tanti noi, mio nonno, mio padre, mio bisnonno, lo mettevano nei cappelletti o nei tortellini in brodo, per cui era anche qualcosa di diverso, e questo mi fa generalmente piacere, che oggi, in un tempo molto moderno, le cantine sociali, i privati, tutti gli operatori del settore, come il sottoscritto, che fanno sempre abbinamento con prosciutti e formaggi al nostro vino. Bene, ma io non sono molto d'accordo sempre a fare questi abbinamenti con i prodotti tradizionali. Insomma, il Lambrusco si deve in un certo senso, non dico rivalutare, ma deve affrontare anche altre cose, deve affrontare altri prodotti. Bisogna sdoganarlo dai confini regionali o provinciali. Non so se è d'accordo Luca Gardini, campione mondiale dei sommelier. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti, buongiorno Davide. Io sono d'accordo con te, Lambrusco possiamo berlo con la pizza, con le ostriche, da solo, un grande vino per unicità e identità. L'unico consiglio che do, che di recente sono tornato dal Messico, ancora nei paesi sudamericani vedo dal loro prodotto Lambrusco bianco, quindi secondo me oltre che sdoganarlo come d'accordo con te, bisogna tutelare questo grande prodotto, unico per stile, per personalità, per grande bevibilità, oltre che il grado alcolico basso e basso costo, si beve molto facilmente e molto bene, quindi è un vino che va esaltato per le sue caratteristiche e ce lo dovete tenere stretto perché è un grande prodotto. Io sono un grande tifoso dell'Ambrusco, ho detto quindi insieme a te che quest'anno sarà il vino dell'anno. Bene, rimani con noi Luca, rimani con noi perché ricordo numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Ma ora voglio chiedere, io voglio andare nel tempio del vino in Italia, all'Enoteca Pinchiorri a Firenze, e allora voglio chiedere ad Alessandro Tomberli, che è il direttore appunto dell'Enoteca, voglio chiedere, ma un grande tempio come il vostro lo accoglie il Lambrusco? Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Sì, è stato accolto perché San Pinchiorri innanzitutto è modenese, è di Monzone, è Pavullo, per cui per anni ha sempre rifiutato il Lambrusco per un po' per la qualità, un po' per la nomea un po' svalutata di questo grande vino. Da un anno a questa parte, dalla primavera scorsa, lo proponiamo come aperitivo, un Lambrusco rosé che devo dire che ha un successo straordinario. La gente rimane a bocca aperta, perché un po' perché nel tempio del vino, insomma, dove tutti i grandi champagne si servono e si bevono, e servire un Lambrusco fa un po' effetto, però quando lo assaggi poi ci rimangono, perché veramente si nota la qualità di un grande vino. E devo dire che anche oltre oceano, non in America ma siamo ristorante in Giappone, ha quasi soppiantato le altre bollicine. Luca, cui... Luca, hai sentito? Hai sentito? Sì, ho sentito Davide. Quindi e poi Luca che ci manda tutti gli aggiornamenti, tutti le bottiglie da assaggiare, per cui dobbiamo molto anche a lui. Bene, grazie, rimanete con noi comunque. Sentiamo Sante dalla provincia di Bologna, anzi da Bologna. Buongiorno Sante, radioascoltatore. Buongiorno, volevo dire che parlare di Lambrusco è un po' generico, cioè il Lambrusco di Gasparossa, il Lambrusco di Solbara, cioè parlare solo di Gasparossa, di Lambrusco genericamente è un po' diminuisce l'importanza di questo vino per noi, ecco. E lei cosa propone? Il Gasparossa, oggi parliamo di Gasparossa, allora che è un determinato Lambrusco, oppure parliamo di Solbara, un altro Lambrusco, un altro sapore. Beh certo, abbiamo parlato dei Lambruschi, è evidente che c'è una sottovisione, c'è Salamino, c'è appunto abbiamo detto Solbara, Gasparossa, ma sicuramente questi vini si sono rivalutati tutti, non è che ce ne sia stato solo uno in particolare, solo la Gasparossa, anche se la Gasparossa sicuramente forse è quello che è più convincente rispetto agli altri, però credo che ci sia stata una crescita di tutti i Lambruschi, non so se sei d'accordo Luca? Assolutamente, sì. Col fatto che anche l'Enoteca Pinchiorri lo mette in aperitivo, questo vuol dire, poi le varie sottozone, comunque il vitigno Lambrusco, la bellezza di questo vino è anche che in ogni piccolo microzona, da quello reggiano modenese, quindi di Solbara, Gasparossa, Castelvetro, Salamino, ha le sue caratteristiche, secondo me quello è un plus valore. Poi diciamo che adesso anche molti lo fanno nella versione metodo classico con ottimi risultati, e secondo me questa è proprio una visione di apertura mentale, è per questo che lo rende unico, e in questo momento non è che sta spopolando perché è diventata una moda, sta spopolando perché la grande qualità sta facendo un gran successo. Beh, io direi che oltre a parlare di vitigni, io parlerei anche di territori che oggi forse contano molto di più. Ad esempio io amo un Lambrusco che è nella zona di Viadana, in provincia di Mantova, quindi sicuramente sono vari anche i gusti. Ma sentiamo Fabrizio da Modena, quindi sicuramente la terra del Lambrusco. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno, salve. Io ho telefonato per raccontare una brevissima storia legata al Lambrusco. Io sono modenese, sono un consumatore di Lambrusco, amo molto il Lambrusco. In un viaggio, tanti anni fa, conobbi un produttore di Brunello, non dico il nome per privacy, per correttezza verso questa persona, che però ebbe occasione di cenare con questa persona, che mi disse una cosa molto bella, molto interessante sul Lambrusco. Lui vende molto Brunello dalle nostre parti, e mi raccontò che l'unico luogo da cui si portava via vino era l'Emilia, si portava via il Lambrusco, era l'unico vino che acquistava nei suoi viaggi. dicendomi e raccontandomi che è l'unico vino davvero insostituibile. Quando lui mi disse, quando si ha voglia di Lambrusco, l'unico vino possibile, immaginabile, è lui, è il Lambrusco. Mentre magari sui vini fermi, adesso non voglio per l'amor di Dio mancare di rispetto ai grandi vini, però cioè, certe volte se i vini fermi insomma, sono anche sostituibili tra di loro in qualche modo. Il Lambrusco di per sé è un prodotto semplice, ma un prodotto unico, è insostituibile. Bene. Per certi versi. Bene, era interessante, è una storia molto carina, mi è sempre piaciuta molto, l'ho sempre raccontata questa. Grazie a Fabrizio. Volevo dire che a proposito del radioascoltatore che ha telefonato prima, se io gli facessi vedere la schermata delle SMS, non si parla assolutamente di diciamo vitigni, ma si parla semplicemente di territori. Chi mi dice che preferisce il Reggiano, chi mi dice che preferisce il Modenese, chi mi dice che preferisce il Mantovano. Cioè qui è veramente una sfilza incredibile, che sembra veramente una partita territoriale. Gianni da Pisa, un altro radioascoltatore, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo fare un intervento. Noi siamo un gruppo di amici che ci troviamo spesso facendo cene, per esempio sul bollito, eccetera, e siamo amanti anche del Lambrusco. Il problema che riscontriamo noi in Toscana è un po' quello della distribuzione, nel senso che non è così semplice trovare Lambrusco nelle enoteche, se non in quelle un po' più fornite. Quindi secondo me un po' il successo dell'Ambrusco è legato anche al possibile miglioramento della distribuzione. Non so. Beh, se, guardi, un po' come è successo per il Prosecco. Se è d'accordo. No, mi spiace, una cosa che sicuramente manca il nostro esperto di distribuzione, ma volevo dire che siccome in Toscana c'è un campanilismo sicuramente sul vino, magari il Lambrusco passa difficilmente. Io volevo tornare a Alessandro Tomberli appunto su questo. Volevo chiedere, Tomberli, diciamo lo straniero soprattutto, che reazione ha quando gli offrite appunto come aperitivo un Lambrusco Rosé? Rimane a bocca aperta perché non se l'aspetta, però dopo che l'assaggia rimane piacevolmente sorpreso e devo dire che tanti continuano a passeggiare con quello, proprio perché al di là del nome che sì, sicuramente è svalutato magari all'estero, come diceva Luca prima, in Messico o in paesi in Sud America o anche negli Stati Uniti, il Lambrusco è un vino così, un cheap wine, proprio un vino da paragonarsi alla Coca-Cola, ma non è assolutamente vero, non è così. Abbiamo delle forti responsabilità noi italiani negli anni passati ad esportare, a non valutare la qualità, e adesso ne paghiamo magari le conseguenze, però col lavoro che stanno facendo adesso i produttori e soprattutto il lavoro che stanno facendo i ristoratori e i notecari, stiamo rivalutando questo grande vino. Non mi sorprenderei di vederlo tra qualche anno sugli scaffali dei wine bar così competitivo come è stato un po' anni fa per il Nero d'Avola e questi vini che hanno invaso un po' i wine bar. Bene, grazie Alessandro Tomberli, numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Beh, vedo che mi arrivano anche un sacco di abbinamenti appunto con il Lambrusco che non sono quelli soliti. Dice campione de che, ma ve la raccontate da soli, sommelier non esistono, ma per favore, dice Luigi Bologna. Cosa ne pensi, Luca Gardini? Non si capisce comunque perché ci sia questo SMS, però a te voglio chiedere, che vai spesso all'estero, cosa si può fare per il Lambrusco nei mercati esteri, visto che in molti mercati è ancora sconosciuto oppure conosciuto ancora come Red Cola? Beh, bisogna fare quello che l'Italia un po' in Birmania non ha mai fatto, prendere la propria valigia, il proprio produttore e presentare il proprio prodotto. Allora solo così puoi far conoscere un territorio, una zona, un vitigno, un vino. Come diceva prima Alessandro, magari la gente rimane perplessa, poi quando lo prova la sua unicità e poi non lo molla più. Quindi sicuramente nei paesi più sull'America, l'America Latina, dove purtroppo, ripeto, mi è capitato di vedere queste cose, ho scritto Lambrusco bianco, prodotto che lo chiamo Lambrusco, questo può diventare un problema, perché è un problema di comunicazione e è un problema di tutela del nostro patrimonio italiano, che è questo grande vino che è Lambrusco. Guarda, ti devo dire che c'è anche qualche italiano, perché mi ha scritto ora un SMS che dice che ama il Lambrusco bianco, quindi come vedi ci sono anche c'è anche molta ignoranza sul nostro mercato. Grazie a Luca Gardini, sentiamo Franco. Grazie. Da Modena, buongiorno. Franco, prego. Buongiorno. Sì, prego. Buongiorno, tre flash. Sì. Noi modenesi abbiamo subito per molti anni la cultura un po' snob del vino in Italia. Solo vini fermi, niente Lambrusco, il Lambrusco paragonato quasi alla Coca-Cola. In realtà il Lambrusco è un grandissimo vino ed è un grandissimo vino per il nostro cibo, perché il nostro cibo mangiato ovviamente con un vino fermo è un cibo che si pianta sullo stomaco e non va giù, e quindi le tagliatelle, i tortelloni, le lasagne, i bolliti, i cotechini, gli zamponi hanno bisogno solo ed esclusivamente del nostro Lambrusco. Bene. Per il nostro benessere, proprio per il nostro benessere. Grazie Franco. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di Lambrusco. Devo dire che ho un SMS molto interessante. Arianna da Pegugnaga mi dice: anche a Tel Aviv bevono il Lambrusco come aperitivo. Bene, questo è il nuovo trend. Beh, vediamo che anche all'estero quindi si sta movimentando appunto il Lambrusco. Ricordo numero verde 800 24 00 24, SMS 349 238 6666. Bene, a proposito di estero e a proposito di Stati Uniti, abbiamo con noi un produttore importante, reggiano in questo caso, quindi come vedete ci stiamo spostando anche sui territori, Alberto Medici. Bene, Medici, diciamo un loro prodotto negli Stati Uniti ogni anno arriva primo sul rapporto qualità-prezzo. E allora gli voglio chiedere a Medici: ma allora negli Stati Uniti il Lambrusco, quello di qualità, funziona, Medici, vero? Buongiorno a te Davide e a tutti coloro che sono all'ascolto, e un saluto anche al grande Luca Gardini, se è ancora collegato. No, non è più collegato Gardini, peccato. L'abbiamo mandato a fare delle degustazioni. Niente, sì, noi già alla fine degli anni 90 abbiamo iniziato a riconquistare il mercato americano, ma sotto un'altra forma, sotto un altro aspetto, puntando su prodotti finalmente di qualità. È stato il nostro Lambrusco Concerto un po' il pioniere, che è riuscito ad entrare in locali molto importanti, in ristoranti newyorkesi tipo Babbo, una stella Michelin, Del Posto, due stelle Michelin, Gramercy Tavern, un altro stellato importante, tantissimi altri, e diciamo che tutti gli anni riceviamo delle recensioni molto importanti. E chiaramente il rapporto qualità-prezzo è la caratteristica che all'Ambrusco si addice maggiormente, ecco. Bene, rimani con noi Alberto, ora sentiamo, certo, sentiamo un altro protagonista, diciamo, della rinascita dell'Ambrusco, Sandro Cavicchioli. Buongiorno Sandro. Sandro è presidente anche degli Assoenologi Emilia. Bene, buongiorno Sandro. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, voglio chiederti: cosa è successo secondo te a un certo punto, diciamo, di questa storia del Lambrusco, che ha cambiato faccia il Lambrusco e anche nella mente dei consumatori, quelli magari più evoluti, addirittura in prima battuta? Beh, partiamo da un giorno nefasto, il metanolo. Da dopo il metanolo un po' tutti i vini italiani si sono riorganizzati, sia con i prodotti destinati all'estero, sia con i prodotti tipici di territorio. È da lì che dobbiamo vedere, è da lì, dal 1987 ad esempio, che noi abbiamo creato Vigna del Cristo, un cru di Lambrusco a Sorbara, e da lì dopo è nato Rosé del Cristo e tutti altri prodotti che sono nati proprio nel filone del miglioramento qualitativo generale del comparto enologico italiano. Ecco, voi avete anche creato l'ancestrale, che è stato un po' un tornare indietro, quindi la tradizione in questo caso. Ma vedi, l'ancestrale è nato un po' dalla nostra esperienza spumantistica, in quanto noi abbiamo parlato di metodo classico. Il metodo classico nel territorio da piccole aziende è sempre stato fatto, anche da noi, da Cavicchioli, è stato sempre fatto da molti anni per la valorizzazione, però non attecchiva. Ti devo dire, oggi io è con orgoglio che sento il tema e sento gli ascoltatori e vedo e sento te parlare di questi SMS, perché alcuni anni fa era veramente impensabile. Ecco, è per questo che io ho titolato Lambrusco tutta birra, proprio per questo, perché c'è un cambiamento, ma questo cambiamento lo si deve anche a molti che diciamo suggeriscono il vino, come Beppe Barbieri dell'Osteria della Francescana di Modena, perché abbiamo parlato prima dell'Enoteca Pinchiorri, ma parliamo anche del ristorante, uno dei ristoranti più blasonati al mondo. Quindi il Lambrusco lì è sempre stato di casa. È così, Beppe? Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. C'è Sandro che ascolta, buongiorno Sandro. E noi da tanti anni, tra l'altro abbiamo iniziato un percorso anche con la famiglia Cavicchioli, abbiamo comunicato, posizionato e cercato di fare del nostro meglio per il Lambrusco. Ci abbiamo sempre creduto, come giusto che debbano fare tutte le persone che amano il territorio, che amano i prodotti del territorio, che poi sono la vera grande ricchezza di questo straordinario paese, seppur in difficoltà. Il Lambrusco è un vino che ha delle potenzialità enormi, sfruttate, ma probabilmente sfruttate ancora troppo poco, perché bisogna davvero maturare, no, la consapevolezza che il vino non deve essere più il Lambrusco non deve essere più un vino necessariamente, no, da altissimo rapporto qualità-prezzo. Cioè, lo sforzo che io devo fare in un ristorante gastronomico, poi se è importante lo dite voi e soprattutto lo diranno quelli che ci frequentano, cioè i nostri ospiti, lo sforzo che io devo fare è, come dire, piano piano, con tutta la forza, la modestia, la capacità, cercare di sollevare quello che è nell'immaginario collettivo l'idea che sia Lambrusco, perché mi capita di incontrare ospiti che mi dicono: cavolo, Lambrusco straordinario, non ricordavo un Lambrusco così buono, perché ci capita in giro per l'Italia di tirare giù dallo scaffale di un'enoteca, certo, piuttosto che dallo scaffale di un negozio in autostrada, un prodotto che talvolta non è invece all'altezza. Invece il Lambrusco è un vino straordinario. Bene, abbiamo, guarda, una telefonata di un radioascoltatore, ma un radioascoltatore un po' particolare, perché è Antonio Ghini, che è un comunicatore della Ferrari, poi un comunicatore da tantissimi anni, che ora vive a Verona, però sentiamo se ricorda con piacere Maranello e Modena, anche se lui sovente ci torna. Buongiorno Antonio. Buongiorno David, no, in realtà ci sto sempre a Maranello, perché adesso dirigo il museo che tra l'altro offre un ottimo Lambrusco, quello che beveva Ferrari con i suoi piloti, Villeneuve in particolare. Ma volevo raccontare una cosa divertente che mi è successa l'estate scorsa, quando sono stato alla Dom Perignon per i 50 anni della 250 GTO, e il maître de cave di Dom Perignon mi magnificava lo champagne rosé, e mi è venuta una domanda, lì mi stavo per mordere la lingua, dico, faccio una domanda che non dovrei fare, ho detto: ma perché non vinificate in rosso il Dom Perignon? E lui ha detto: lo farei, ma la legge lo impedisce. E mi ha dato un assist straordinario, perché gli ho detto: noi lo facciamo il Lambrusco. E credo che in quella sede sia stato un bel riconoscimento al nostro vino. Beh, Antonio, ma tu hai detto, ci devi dire il nome di cosa beveva Ferrari a sto punto. Beh, lui e il suo Lambrusco era il Grasparossa. Prima parlavamo di territori, però il suo, quello era il Grasparossa. Infatti noi abbiamo il Grasparossa che ci viene da Donelli, in questo caso, che era uno dei fornitori, anche tra l'altro sponsor ai tempi della Ferrari. Ma al museo, dove rispettiamo la cultura italiana, oltre a quello Ferrari, proprio cerchiamo di offrire tutto ciò che è più profondamente italiano, e il Lambrusco è certamente una delle caratteristiche di questo territorio. Grazie Antonio, grazie. Ma io devo ricordare, e poi voglio chiederlo a Beppe Palmieri, io anni fa lanciai, lo sa anche Cavicchioli, una provocazione, dissi Lambrusco e ostriche, mortadella e champagne, e questo fece un po' così scalpore, dice non è possibile. Però diciamo che questo abbinamento poi ha funzionato. Beppe, tu cosa ne pensi? È stato anche uno spunto che mi ha permesso di mettermi in discussione, innanzitutto mettere non in discussione Lambrusco e guardare Lambrusco in maniera diversa. Allora, approfitto del tuo assist per fare una riflessione che vorrei condividere. Il Lambrusco è il vino del territorio ed è il vino della cucina tradizionale, così a scanso di equivoci evitiamo qualsiasi polemica magari successiva, no? Quindi i grandissimi salumi, la cucina del territorio, il Lambrusco è il vino, okay, ideale per queste pietanze. Ma non c'è nessuno che ha compreso il valore anche di Lambrusco in evoluzione. Cioè, 50 anni fa il Lambrusco era un vino straordinariamente interessante con i salumi, ed era un vino volgarotto, sempre un'espressione contadina, così come i salumi, che non erano mai stagionati, erano insomma salumi diversi rispetto a quello che è oggi, okay? Su questo siamo tutti d'accordo, ma attenzione, negli ultimi 50 anni i salumi hanno fatto un percorso, sono cresciuti, adesso siamo arrivati alle lunghe stagionature, il Lambrusco non è più il vino contadino e volgarotto di una volta, è diventato un vino straordinariamente elegante, quindi bisogna ragionare nei confronti del Lambrusco in maniera diversa. Questo vuol dire, se io e te, Davide, andiamo alla Osteria Cera e mangiamo un pranzo a base di crudi, di pesce o anche di cucinato, io non voglio bere champagne, io voglio bere Lambrusco. Ma se mangio il culatello di Spigarore razze nere sei anni, un bicchiere di Lambrusco lo bevo volentieri, ma se nell'idea di dare evoluzione a entrambe le cose, per non fare un torto al Lambrusco o al salume, l'intuizione potrebbe essere quella di bere, che ne so, un bicchiere diverso, potrebbe essere un bicchiere di Sauternes. Sì. No, ragioni sul dolce, il salato, il dolce. Sono completamente d'accordo con te, bisogna un po' smitizzare sicuramente questi legumi comuni. Un'ultima battuta, Alberto Medici. Medici, oltre negli Stati Uniti, qual è l'altro mercato molto ricettivo? Ma allora, noi diciamo che abbiamo dato vita ad una rete distributiva che ci consente in questo momento di esportare il nostro Lambrusco in oltre 60 paesi. Ci tenevo a dire che è una rete distributiva altamente qualificata che ci ha consentito di arrivare in posti molto prestigiosi dove il Lambrusco non era mai stato ospitato precedentemente. E altri paesi molto ricettivi sono il Giappone in questo momento, il Brasile. Quindi mercati nuovi, insomma, i mercati nuovi, emergenti. Mercati nuovi e dove il consumatore, diciamo, sta trovando il Lambrusco un prodotto molto accattivante, molto interessante, certo, per le sue caratteristiche intrinseche. Sandro, anche tu concordi su questi nuovi mercati per il Lambrusco? Veramente, tu pensa che oggi Cavicchioli è assieme alla carta dei vini come Melini, come Bolla, Nino Negri, Rapitalà, e di conseguenza oggi, grazie anche al Lambrusco, la squadra è più compatta e possiamo offrire una gamma completa in tutto il territorio nazionale all'estero. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a svelare, anche perché ho detto Lambrusco a tutta birra, ho detto sicuramente cresce questo Lambrusco molto sui mercati, ma anche sulla considerazione. Però c'è stato diciamo un'operazione molto interessante fatta da uno dei migliori mastri birrai italiani della birreria artigianale Birra del Borgo di Borgo Rosa in provincia di Rieti, Leonardo Di Vincenzo. Buongiorno Leonardo. Buongiorno a voi. Con un produttore di Lambrusco di Parma, ecco l'altra area in cui si produce Lambrusco, Ceci, che hanno, diciamo, messo sul mercato una birra molto ma molto interessante, appunto, che si chiama Birra Parma. Allora io volevo chiedere a Leonardo, ma è stato scelto il discorso di questa combinazione appunto con il Lambrusco da un mastro birraio perché ha delle peculiarità particolari che si può sposare, oppure diciamo che è stato un tentativo che può essere portato anche con altri vini? Ma questo qui in realtà fa riferimento un pochino forse all'esigenza, diciamo, di noi produttori italiani di cercare in qualche maniera di italianizzare un prodotto che tradizionalmente non lo è, e quindi c'è un po' la voglia di andare a ricercare quella che fa parte della nostra grande cultura, quindi ovviamente quella del mondo enologico. Pertanto, infatti, tant'è vero l'utilizzo in questo caso proprio dei lieviti che sono stati usati lì dal mosto in fermentazione lì della cantina Ceci, praticamente ha portato infatti a una birra che avesse delle caratteristiche proprio di profumi diverse, quindi un accento di originalità importante, insomma. Quindi il Lambrusco ha queste caratteristiche, queste peculiarità. Lei ha fatto qualche altro tentativo in questa direzione? Sì, un altro tentativo in questa direzione abbiamo fatto utilizzando invece del mosto di Sangiovese, in questo caso praticamente l'abbiamo utilizzato in una quantità abbastanza importante, intorno al 40% aggiunto, diciamo, su una nostra birra, dove poi abbiamo applicato un metodo classico in piena regola, quindi con tanto di sboccatura aggiunta di una liquor d'espedizione. Il risultato infatti è molto divertente perché diventa una birra che ha delle caratteristiche che sono proprio un po' di confine tra i due mondi, cioè tra quello che è proprio il mondo del vino, il mondo anche di uno spumante, di un vino frizzante, allo stesso tempo invece proprio di quello con delle caratteristiche caratteristiche ricordano la birra. Leonardo, rimanga con noi, vedo che mi arriva un SMS da che, appunto, Claudio Pasqualini della cantina di Gonzaga, che mi dice che producono appunto l'ambrusco kosher per Israele, quindi sicuramente, diciamo, il radioascoltatore di prima che aveva detto che era la radioascoltatrice che era un trend importante come aperitivo è qui confermata. Sentiamo, abbiamo con noi Antonio da Napoli, un radioascoltatore. Buongiorno Antonio. Buongiorno a voi. Prego. Volevo dire, sono stato negli anni scorsi diverse volte in Emilia per viaggi, per turismo, e ho bevuto un ottimo lambrusco. Come mai, arrivato a Napoli, anche in alcune notevoli abbastanza fornite che hanno diversi tipi di vini italiani importanti, ho acquistato del lambrusco, ma non faccio il nome perché della marca, perché per non pubblicizzarlo, ma il sapore è totalmente diverso. Cioè, ho notato che se il lambrusco lo bevo in Emilia, a Forlì, a Reggio Emilia, a Modena, ha veramente un ottimo sapore. Quello che acquisto nelle enoteche a Napoli ha un sapore totalmente diverso. Volevo sapere, chiedere se è relativamente al prezzo d'acquisto che cambia il prodotto, no, o se quando vado in Emilia devo acquistare 5 cartoni di posto all'anno. Antonio, io credo che questo possa succedere, non credo che possa succedere sempre, magari una bottiglia può essere che abbia qualche problema rispetto a un'altra, però non credo che cambi sapore. È passato quel tempo in cui, diciamo, che i vini trasportati cambiavano sapore, almeno penso che sia così. Comunque, lo chiedo a Giampaolo Isabella del Podere di Saliceto. Ecco, questa è una bella storia di un giovane. Buongiorno. Che ha cambiato completamente mestiere e ha cominciato a produrre lambrusco forse sulle ali del successo del lambrusco. Giampaolo, è così? Sì, allora Davide, innanzitutto grazie di avermi chiamato e niente, noi siamo partiti nel 2005 perché ci siamo innamorati di questo mestiere, proprio innamorati del vino, e siamo appunto venuti in proprietà, abbiamo acquistato noi dei terreni e dal nulla abbiamo creato, diciamo, la nostra cantina, quello che adesso è il Podere il Saliceto. Noi siamo innamorati proprio di questo vino in tutti i suoi aspetti, senza volere scendere proprio in standardizzazione del gusto, perché quello che ci piace è dare la nostra impronta, la nostra mano, insomma, su quello che è la nostra interpretazione di questo vino. Senti Giampaolo, ecco. Quindi tu hai cambiato mestiere praticamente, messo a fare il produttore di lambrusco e prima facevi, che mestiere facevi? Io prima sono ottico-optometrista e niente, lavoravo nel negozio dei miei zii in centro, in Piazza Grande a Modena, per cui ho fatto un cambiamento di vita totale, insomma. Bene, grazie Giampaolo di questa storia appunto di giovani che passano all'agricoltura, è sempre interessante sentirli. Gianluigi, direttore della rivista De Gusta Veronesi, è un radioascoltatore che ha chiamato, sentiamo. Senti Davide, io sto ascoltando con molta attenzione la tua trasmissione, è molto centrata. Per esempio, l'ascoltatore prima di Napoli dice: ho preso dagli scaffali del lambrusco. Ma quale tipo di lambrusco? Sì, appunto. Non... Forse serve un impegno dal punto di vista della comunicazione di tutti i produttori, perché pensa, io ho rintracciato un numero molto antico della Gazzetta di Modena, parliamo di un numero dei primi del Novecento, dove c'è un'intera pagina dedicata al mondo del lambrusco, che viene descritto dal giornalista come un vino eccezionale, già allora esportato negli Stati Uniti e in altri paesi, ma appunto dove si dice proprio con molta chiarezza che i modenesi invece non sono bravi nell'approccio con la comunicazione per questo tipo di vino così già ambito anche all'estero. Quindi forse servirebbe una comunicazione più attenta, perché dicevamo prima, per esempio, non so, parliamo di lambrusco di Sorbara, ma ce ne sono quattro tipi: rosso, rosé, secco o amabile. Quindi quando uno va allo scaffale, che cosa ha preso? E poi quando l'ha preso, come lo deve utilizzare? Io vedo un grande impegno dal mondo del lambrusco, non a caso questo vino è diventato veramente ambito, se ne parla sempre di più, però Davide, quando mi ritrovo a parlare con dei colleghi, con dei coetanei, appena usciamo dal mondo dei professionisti del vino e della gastronomia, bene, veramente c'è una confusione pazzesca sui tipi, bene, di lambrusco, come va bevuto, come va abbinato. Grazie Gianluigi, perché abbiamo poco tempo, grazie del tuo intervento, ma io voglio tornare velocemente a Leonardo Di Vincenzo, perché Leonardo, io ho l'impressione che questo successo del lambrusco sia un po' anche come il successo delle birre artigianali in questo momento. Ma sicuramente il successo della birra artigianale è figlio anche del fatto che c'è una riscoperta verso un modo diverso di bere la birra, cioè nel senso noi per tradizione o comunque anche semplicemente per ignoranza, per non conoscenza, per una vita abbiamo bevuto birra come se fosse un'alternativa a qualsiasi bevanda frizzante, e invece in realtà la birra è una storia, una tradizione, una cultura incredibile, e quello che sta succedendo infatti in Italia negli ultimi 15 anni è proprio un esempio straordinario, cioè nel senso ci sono usciti fuori più di 500 produttori che comunque soprattutto negli ultimi anni stanno dando un accento ad una via italiana proprio di produrre birra, cioè un modo quindi utilizzando ingredienti territoriali. Lei mi ha dato tu mi hai dato l'assist per una prossima trasmissione, la via italiana della birra, sicuramente la faremo, Leonardo, ti chiameremo, grazie del tuo intervento. Walter dalla provincia di Vicenza, ho 20 secondi. Buongiorno Paolini. Ho 20 secondi, eh? Allora, 20 secondi per dire che questa notte ho cotto le meringhe con il lambrusco che ho trasformato in un brulè e quindi trasformato in un dolce, il vino. Bene, grazie Walter dalla provincia di Vicenza. Tutti mi ricordano la canzone di, potevamo metterla infatti, di Ligabue, Lambrusco e Popcorn, e mi ricordano che Vinicio Capossela durante i suoi concerti beve solo Lambrusco e anche Guccini. Bene, sì, insomma c'è un po' di tutto tra gli SMS. Io vi saluto, vi auguro un buon weekend, magari anche con un bicchiere di Lambrusco, perché no, e vi do appuntamento domani con Il Riposo del Guerriero e ogni giorno con La Pillola alle 11.05 e alle 23.05. Un caro saluto dal vostro gastronauta.